Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. 2.52 del mattino, è quasi terminata la nostra serata qui al convento. Non è terminata invece la voglia di conoscere ancora qualche festeggiato, qualche sposa in questo caso specifico, perché abbiamo ai nostri microfoni chi? Michela. Michela, benvenuta. Mi piace questo che stiamo parlando insieme e guarda completamente dall'altra parte. No, no, ma fai bene, è giusto che tu stia davanti al microfono, almeno ti si sente bene, si sente bene la tua voce. No, così non guardi loro. Eclissime. Bello, mi piace Eclissime, per restare in tema, insomma, magari per dare un attimo un momento di didascalico, ieri, che poi è l'altro ieri ormai, venerdì 27 c'è stata l'eclissi di luna, penso più lunga della storia, di tante storie, non so da quanti anni non si vedesse una cosa del genere. Questo perché, andando in replica all'intervista, magari tra un mese, giustamente uno non capiva la battuta delle clip. Però mi è piaciuta. Eclissime, mi è piaciuta. Allora, quindi, benvenuta Michela, benvenuta. Grazie. Qui. Da dove vieni? Verona. Verona, e cosa festeggi stasera? Festeggio l'addio nubilato. Il tuo addio nubilato, molto bene. Quando sarà questa, insomma, quando sarà la data del lieto evento? Il 7 settembre. Con? Con Alberto. Ce ne vergogna un po' più. Si vergogna, no, più del 7 settembre. Sì. Cosa hai sbagliato? Niente. No, è giusto. Ah no, ha messo la mano davanti alla bocca, come quando da piccoli si diceva una cosa che non si doveva dire. Pensavo che avessi, come dire, detto qualcosa di sbagliato. No, no, no. Tra l'altro molto, molto hippie come estetica anche, sia nel vestito molto colorato, floreale, vedo. Tutto ciò che è diverso mi piace. Tutto ciò, mi piace questa definizione, tutto ciò che è diverso mi piace. Ad esempio, cosa ti piace di diverso rispetto al mondo? Tutto ciò che è diverso. Fammi qualche esempio. Nel senso che non seguo la... I cliché. La moda, le cose. I cliché, standard, i cliché. Ha il suo stile, esatto. Ha il suo stile, brava. E tua sorella? La salvo, dai. Davvero? Eh sì, intervieni nel momento. Nel momento, nel momento del bisogno. Allora, ok, quindi abbiamo detto Alberto 7 settembre. Mi dicevi fuori onda però che tu e Alberto siete, come dire, sì, avanti. Ecco, siete avanti. Due bambini. Sì, quanti uno anni hanno? 3 anni, uno di 4. 3-4 anni, quindi così via. Pa, pa, pa, pam. Sì. È stato un anno intenso quello lì, diciamo. Già. Per molti punti di vista. Già, sì. Come si chiamano? Samuele e Cristian. Samuele e Cristian. Anche nomi, vedi, tornando al discorso di prima, non nomi che si sentono tutti i giorni. Vabbè, però, no, beh, non troppo. Okay. Non se ne sentono molti. Hanno un motivo, un qualcosa che ti lega a qualcuno in particolare? No, mi piacevano. Ti piacevano come suonavano? Bene, bene. E come mai, non voglio entrare chiaramente nella tua sfera intima, se ti va, come mai questa scelta di sposarsi dopo? Cioè, è stato un caso della vita o una decisione vostra? Sono arrivati i figli, poi abbiamo pensato. Ah, ok, quindi è andata così. Cioè, non è che l'avevate pianificato, avevate deciso comunque vi sareste sposati in un secondo momento. Vi conoscete da tanto? 15 anni e di più, la classica storia di banchi di scuola, insomma, no? È nata lì magari, no? No. Non è nata lì. È nata in discoteca. In discoteca? Nel vecchio modo dell'epoca. Ti ha chiesto l'accendino per la sigaretta? No. Ti ha chiesto l'ora? No. Perché sai che, tornando al discorso dei cliché, il cliché degli anni fine 90, 2000 forse, era o la sigaretta o scusa che ore sono. No. Quindi no, si è distinto è stato, dalla massa. Ma sì, è stata una cosa un po' così. Così, confusa, fumosa. Così, ah, ok. Però si è avvicinato lui, almeno quello. Ma sinceramente non si ricorda neanche. No, è stata grazie alla mia amica. C'è una complice di mezzo che ha detto, esatto, guarda che a lui piace lei, a lei piace lui in realtà. Bello. Non era questa cosa. Però in realtà poi è stata una cosa così. Sì. Cioè addirittura non era vera. Bello. No, non è, cioè, nel senso, mia, no, non so da parte sua se era vero. Non era stata palesata questa cosa, okay, ecco, okay. Però l'amica ha deciso che dovevano conoscere. Bello, che è un po' il gioco che si fa sempre sui banchi di scuola, quello che si sente una campana e l'altra e poi si mettono insieme, esatto. Invece no, in questo caso è stato ha funzionato. Un po' casuale, ma comunque ha funzionato. Bene, bene, bene. E chi c'è qui con te? A parte la sorella che già ci hai presentato, però si chiama, ecco, dice anche noi. Sara, benvenuta. Chi c'è qui con te poi? Le mie amiche, siamo in 10. 10? Mm-hmm. Bel gruppettino. Sì, sì. Ok, presentaci quelle che sono qui ai microfoni. Francesca. Cristina. Ha avuto dei dubbi sul tuo nome? Ah no, no, ah, perché volevi dire Titti? Sì, ok, volevo dire. Pensavo che fossi dimenticata l'identità della tua amica. E poi chi c'è anche? Che e sono, poi sono immagino in giro. Fuori, esatto. Sì, beh, però li salutiamo. Elisa. C'è la famosa Elisa dell'incontro. Esatto. Ah, è lei, esatto. protagonista dell'incontro. Certo. E poi le altre. Poi la Silvia, la Elisa, la Chiara. La Chiara. Lei è tipo il grillo parlante della sì, della perché la vedo un senso, po' persa. Quando ti mancano le parole o i verbi, lei chiude. Lei è bella chiusa sempre. Sì, è forte, è forte. Tre anni in più si sente. Ah, si sente a un certo punto. Ha 3 anni, guarda. A un certo orario, chi ha la nostra età, poi comincia a spegnersi. Però volevo rubarti ancora qualche minuto, se ti va, e raccontarci la tua passione. Penso che anche il tuo lavoro, giusto? Quello di rimettere a nuovo, non so se solo donne o uomini. Sì. Dai, raccontaci cosa fai. Cosa vuoi che ti racconta? E che ne so, niente. Non niente, mi diverto, il mio lavoro è divertente. È certo che è divertente. È un lavoro e anche un divertimento. E cosa fai, dicelo? Parrucchiera. La parrucchiera. E mi dicevi che la tua intenzione è quella di aprire uno studio tuo, giusto? Speriamo. Non so se si chiama studio, sì? Sì. Ok. Salone, ok. E specializzata in donne e uomini o prendi chi capita? Entrambi, nessun problema. Cosa sei, una anarchica, nel senso che fai un po' tu, o comunque si cerca sempre di rispettare chiaramente le esigenze del cliente, però ti capita di proporre anche o di essere un po' più intraprendente? Propongo sempre. Proponi sempre, infatti l'ho chiesto apposta perché immaginavo questa risposta. E da cosa ti fa ispirare? Dal viso, dal carattere, dallo stile? La conosco, poi propongo. Ah, quindi la conosci, cioè prima, nel senso, fai due domande, due chiacchiere? Sì, la conosco un po', come la pensa, come è lei di stile, e poi faccio. Bello, mi piace questo tuo atteggiamento, questo tuo modo di interpretare il tuo lavoro. Lo fai da tanto? Sì, da tanto. Hai 10 anni. Hai sempre voluto farlo o avresti sempre voluto farlo? Volentieri, sì. Hai sempre fatto volentieri. Bene, bene, mi fa piacere. Ragazzi, voi volete dire qualcosa? No. No, state bene così. Ho visto che facciamo gli auguri alla Miki. Eh beh, certo, assolutamente. Ho visto che vi siete divertite, vi siete molto, mosse. Molto, mosse serata. Parecchio, ci fa piacere che vi siate divertite. Ok, allora se tu, Michela, non vuoi aggiungere altro, ma non so se hai le forze per farlo, passi parola. E va bene, allora non ci resta altro che augurarti una buona serata e una buona festa. In bocca al lupo chiaramente per tutto. E grazie anche alle tue amiche che ti hanno accompagnato e a tutte quelle che sono fuori che ti aspettano. Grazie ragazzi, a presto. Ciao. Ciao.